Terra in vista. Le Olimpiadi spiegate a mio figlio. Le Olimpiadi spiegate a mio figlio, bentornati a Terra in vista. Federico Taddia, Telmo Piovani, ciao Telmo. Ciao, eccoci qua. Ultima puntata, ultimo appuntamento. Tappa del nostro viaggio estivo. Vi abbiamo raccontato le Olimpiadi, o meglio abbiamo utilizzato le Olimpiadi per scoprire veramente un mondo di cose, una parola per ciascuna puntata, e l'ultima parola che abbiamo scelto è proprio un po' l'obiettivo, no? Il perché si fa sport. Il bello della storia, alla fine. La vittoria! Andremo oggi a scoprire che cos'è, perché è tanto ambita, tanto cercata, tanto voluta, tanto sudata, perché è una festa, perché insomma si vuole vincere. Ma partiamo come sempre dalle risposte dei bambini. A loro abbiamo chiesto di spiegarci cosa sia la vittoria. Yuhu! La vittoria è una conquista. La vittoria è qualcosa che ti dà felicità nel cuore. E succede quando hai vinto. È quando una persona vince ed è contenta di se stesso. Vincere una paura, vincere una gara. La vittoria è quando uno vince con onore. La vittoria è quando noi vinciamo. Quando una squadra si è proprio comportata benissimo. Mi sento vincente quando so di aver dato il massimo, quando so di aver giocato bene. Vincere è bello perché abbiamo vinto una cosa, come una medaglia, una coppa. Perché ti esplode qualcosa nel cuoricino e ti senti molto felice. Si vince e si vince una coppa. Una conquista, la felicità, il premio anche, perché c'è anche il premio, no? Ma anche vincere la paura, certo. E vincere con onore. Le ricompense, insomma, che si ottengono quando si dà il massimo e quando i risultati arrivano. Telmo, che cos'è la vittoria? Ma vediamo i vari aspetti, no? Si potrebbe dire che alle Olimpiadi la vittoria è vincere tante medaglie. Giusto? Sei d'accordo? Certo. Qui il campione in assoluto di tutti i tempi è Phelps, il nuotatore, ne ha vinte tantissime. Il primo italiano, uno schermidore che si chiamava Mangiarotti, e subito dopo di lui, sia in assoluto che per le donne, viene la nostra Valentina Vezzali, che ha vinto 9 medaglie, di cui 6 d'oro. Però è una vittoria anche partecipare a un sacco di Olimpiadi. E anche qua gli italiani sono messi bene. Noi abbiamo avuto ospite Josefa Idem, che ne ha fatte 8 di fila, ed è il record per le donne. Oppure vittoria potrebbe voler dire, questo è un po' più strano, partecipare a diverse Olimpiadi in discipline molto diverse da di loro. Anche questo è successo. C'è gente che ha vinto medaglie all'insegna della versatilità umana nel nuoto e nella scherma, nella nuoto e pallamano, canottaggio e ciclismo. C'è Fantastico. Gente che c'è riuscita. Però secondo me la vittoria proprio in assoluto più bella, e questo lo riconosce anche il Comitato Olimpico Internazionale, non è nemmeno l'oro, questo no? Nessuno lo sa, no. C'è una medaglia che vale ancora più dell'oro, che è la medaglia de Coubertin, chiamata così, che è una medaglia data al fair play, cioè viene data ogni tanto a degli atleti che non hanno necessariamente vinto l'oro, ma si sono comportati in modo tale da essere degli esempi di sportività, perché hanno aiutato gli avversari, li hanno salvati e così via. Quindi esiste anche la medaglia del fair play. E poi però direi le vittorie più belle sono quelle piccole piccole che fanno la storia di un paese, a me appassionano molto, tipo le nazioni piccole, molto poco potenti, che in tutta la storia delle Olimpiadi hanno vinto una sola medaglia fino adesso. Per esempio, non so, la Costa d'Avorio ha vinto una sola medaglia d'argento con un atleta, Gabriel Triacò, che ha vinto nei 400 metri a Los Angeles. È un ragazzo ivoriano sfortunatissimo, per questo mi piace ricordarlo, perché poi è morto giovanissimo, a 28 anni, di una meningite virale, ed è al momento l'unico ragazzo che ha vinto una medaglia per il suo paese. Poi c'è l'Eritrea, che ha vinto un solo bronzo nei 10.000 metri, le Barbados, un solo bronzo nei 100 metri con Obadele Simpson, un solo argento per il Botswana, Cipro ha vinto una sola medaglia d'argento nella vela, il Gabon, stranissimo, ha vinto un solo argento nel Taekwondo. E poi la chicca è Tonga, perché Tonga è la più piccola nazione indipendente ad aver vinto una medaglia olimpica. L'ha vinta solo una nel pugilato ad Atlanta 96. Grande, grande. Insomma, questa è la vittoria. Ne abbiamo viste tante ogni volta che viene messa quella medaglia al collo, comunque sono dei brividi veri, sia che faccia parte della tua nazione quell'atleta, ma sia che sia di una qualsiasi altra nazione. Ne abbiamo viste tante di premiazioni, ne vedremo tante altre dalla prossima settimana, quando inizieranno anche i giochi paralimpici. Questo insomma è il godimento che ti dà una vittoria, e di questo oggi parleremo. Ci saranno anche le nostre rubriche, come sempre le animaliadi, la scienza e poi non battere la fiaccola con le storie più belle prese da tutte le edizioni delle Olimpiadi. E partiamo proprio da qui, poi il traffico e ancora Terra in Vista. Non batter la fiaccola, curiosità a cinque cerchi. Barcellona, 1992. Sono i primi anni in cui si comincia a parlare di doping. Molti atleti sono agitati. Ancora non è chiaro cos'è che fa risultare positivo ai test. E in questo stato confusionale è facile cadere in inganno. È quanto capita a Carlos Font, timoniere dodicenne del canottaggio spagnolo, cui i compagni giocano proprio un bello scherzo. Vedendolo rosicchiare una tavoletta di cioccolato, gli dicono: «Sei matto? Non sai che il cioccolato contiene una sostanza proibita? Ci farai squalificare per abuso chimico!» Il ragazzino sbianca in volto e corre dal medico, che gli rivela che si tratta solo di uno scherzo. La cioccolata non è una droga e può mangiarne quanto vuole. Voglio la zanzara, voglio la zanzara, oh, ma quando torna la zanzara? Tutta l'estate che mi ascolto il podcast, tutte repliche, ma quando cazzo riniziate, oh? Scandaloso, perfino lo zingaro all'incrocio è tornato a lavorare. Giuseppe Cruciani, David Parenzo, la zanzara, fra poco di nuovo in onda. Terra in Vista. Eccoci qua quindi con Terra in Vista. La parola è vittoria. Cerchiamo di capirci qualcosa di più con le domande dei nostri giovani ascoltatori. Domande tipo questa. Yuhu! Perché ci piace vincere? Domanda essenziale, secca, diretta, che però insomma racchiude forse tutto il senso di questo viaggio a cinque cerchie che abbiamo fatto con Terra in Vista, vero Telmo? Che si conclude con la gloria della vittoria. Perché ci piace così tanto? Come sempre, le domande dei piccoli, le risposte dei grandi, e per capire perché ci piace vincere abbiamo invitato un antropologo culturale. Diamo il benvenuto a Duccio Canestrini. Ciao Duccio. Ciao. Ciao, buongiorno a voi. Il quale so che sei diventato un campione di ping pong, vero? Sì, infatti, soprattutto mi piace vincere. E se ci spieghi perché? Dunque, me lo state chiedendo voi, ci sto ragionando. Ma devo dire una cosa. A me piace anche guardare, no, il ping pong su YouTube, in televisione, così. E soprattutto mi piace moltissimo vedere quelli che stracciano gli avversari. È bello, indubbiamente è bello vedere. Però mi piace anche vedere quando chi vince poi saluta o abbraccia quello che perde. Cioè, anche così, cioè, quei passi di amicizia, di competizione sana, amichevole, no? Tra due che si confrontano. Ci sto ragionando insieme a voi, perché vincere vuol dire tante cose. Sicuramente ci piace vincere, ma bisogna vedere se parliamo del confronto, del misurarsi, oppure del prevalere sottomettendo l'altro. Insomma, sono cose un po' diverse, no? Ci sono tutte. Certo, ma sportivamente insomma il fatto di arrivare primi fa parte proprio del nostro DNA, della nostra storia. Alla fine è logico, siamo tutti animali, e questa è una bellissima cosa, quindi nel bene e nel male, legati alla terra, al territorio, litighiamo spesso per gli spazi, per le risorse, per avere più cose, l'acqua, l'energia. È dimostrato che in poco spazio, che ne so, in prigione per esempio, si litiga di più, no? Poi c'è anche un'altra variabile, che è quella del genere. Secondo me i maschi, secondo me, oddio, bisognerebbe vedere, però credo che i maschi competano di più. Noi siamo più competitivi, cioè una cosa ormonale, no? Siamo più esploratori anche, più audaci, e ci misuriamo, no? È una questione forse anche ormonale. Però c'è anche da dire che però non è che, sì, secondo diciamo gli scienziati vincere è sopravvivere, cioè c'è poco da fare, però ci sono anche altri modi di sopravvivere, per esempio fare alleanze, fare amicizie, essere solidari, collaborare, mettersi insieme per vincere tutti insieme, e forse questo ci porta al discorso del gioco di squadra, no? Perché un'altra cosa da distinguere è se la vittoria è individuale oppure se, come nel caso di una squadra di calcio, è tutta la squadra che vince insieme. Lucio, una curiosità, proprio da antropologo quale tu sei, i popoli, gli altri popoli, per esempio i cacciatori, i raccoglitori, hanno le competizioni, gli sport, le gare? Ma dunque, anche qua c'è una grande varietà di comportamenti, no? Perché sì, ci sono dei popoli africani dove, per esempio, chi torna a casa con una grande preda e non deve assolutamente vantarsene, perché altrimenti si scredita completamente, cioè deve stare zitto e buttare lì la preda e far finta di aver fatto una cosuccia come se niente fosse. Se lui invece dice va che forte che sono, allora lo cacciano via pedate. Ci sono altri popoli dove penso, no, che ne so io, ai Bororo del Brasile, dove i giochi competitivi sono praticamente guerre simulate, cioè si fanno la guerra per finta e chi vince non sottomette l'altro, ma è un discorso simbolico, nel senso che forse proprio questo a volte aiuta a non fare le guerre vere, ed è tra l'altro una delle interpretazioni che si dà a molti giochi sportivi, tra cui il calcio, no? Meno male che a parte i cretini che si pestano perché sono tifosi esasperati di squadre antagoniste, ma di solito, insomma, il confronto tra due squadre non finisce in guerra, anzi forse serve come valvola di sfogo. Infatti, tornando al discorso maschi-femmine, guarda caso i calciatori sono maschi, ci sono anche le femmine, ci sono squadre femminili, ma non hanno pochissimo seguito, chiediamoci perché. Ecco perché ci piace vincere, insomma, il grande gioco della vita. Duccio, quando perdi a ping pong, sei uno di quelli che si arrabbia, riguarda, no, i propri errori, è sempre colpa dell'avversario o è sempre colpa della sfortuna? Allora, per dirla alla romana, quando perdo merode e quindi... e quindi cerco di migliorarmi. Ecco, mi sembra il consiglio migliore. Grazie davvero a Duccio Canestrini per essere stato qua con noi a in questa voi. Puntata di Terra in Vista. Ciao. Ciao, ciao, grazie. Ciao, ciao. Non batter la fiaccola. Curiosità a 5 cerchi. Tokyo 1964. Nella fase di eliminazione diretta di calcio, la Germania segna quasi a inizio partita il primo gol, mettendo così in difficoltà i campioni in carica della Jugoslavia. Andati in vantaggio così presto, sin dai primi minuti, i tedeschi giocano tutto il resto della partita in difesa, dando sfoggio di un calcio passivo e provocatorio verso gli avversari. Gli jugoslavi prendono così a male questa mancanza di fair play che lasciano il campo dichiarando che non parteciperanno mai più a un torneo olimpico. Sono di parola. Né 4 anni dopo, in Messico, né nel 72 a Monaco, si sono presentati. Non battere la fiaccola alle nostre storie olimpiche, poi ci sono le grandi storie di Telmo Pievani, storie di vittoria. Storie di vittoria, abbiamo appena sentito da Lucio Canestrini, abbiamo parlato di calcio, abbiamo parlato di maschi, e allora io faccio l'inverso, torno a un tema delle nostre prime puntate, le Olimpiadi e le donne, le Olimpiadi al femminile. Okay. Si diceva prima che sono meno competitive, però fino a un certo punto, perché già nell'antichità parlavamo del fatto che le donne hanno cercato di partecipare, no? Quella Ferenice di Rodi, una storia molto particolare, che si travestì da maschio per assistere alle gare, poi venne scoperta. Ma c'è nell'antichità una bellissima storia che non posso non raccontarti essendo bergamasco, che è la storia di Atalanta. L'Atalanta è una storia particolare, perché era una dea minore che nasce come una bambina abbandonata nella foresta, che viene educata a diventare una cacciatrice e una corridrice, corre velocissima, e lei non vuole sposarsi perché è una donna indipendente. Dietro questa storia Atalanta ci sono un sacco di messaggi impliciti su cos'era la società greca. Abbandonata, non vuole sposarsi, non vuole sposarsi perché un oracolo le ha detto che se si sposerà verrà trasformata in un animale. Allora lei cosa fa? Inventa questo gioco per cui lei sfida tutti i suoi pretendenti, e se riesce a batterli li uccide, li trafigge con una spada. Questa storia va avanti per tanto tempo e quindi fa strage di pretendenti, finché arriva un bellissimo ragazzo Ippomene, che invece riesce a conquistarla attraverso uno stratagemma con delle mele d'oro. Lei si ferma a raccoglierle e viene superata. In realtà dietro la storia c'è il fatto che lei era innamorata di questo ragazzo e quindi ha deciso di lasciarsi, di fermarsi perché era innamorata. Così si sposano, ma Zeus, vedendo tutta questa bellezza, era un tipo invidioso, l'abbiamo già detto, li trasforma in due leoni e quindi alla fine l'oracolo si è avverato. È una storia bella perché c'è dietro un'idea di indipendenza della donna, ma anche di capacità di competizione, e si è scoperto recentemente che nelle Olimpiadi maschili, accanto alle Olimpiadi maschili, c'erano dei giochi femminili riservati a delle donne in cerca da marito che venivano fatti proprio durante le Olimpiadi. E poi però è stata scoperta anche un'unica eccezione che è interessante. Sì. Ci fu una donna sola che riuscì a vincere le Olimpiadi dei maschi, ma senza stratagemmi, perché era una principessa spartana che era proprietaria di cavalli che vinsero una gara ippica, e in Grecia la regola era che la medaglia andava al proprietario del cavallo, che era una donna cinisca, quindi una medaglia almeno l'hanno vinta. Le grandi storie di Telmo Piovani, adesso le grandi storie che arrivano dal mondo animale. Animaliadi, record bestiali a 5 cerchi. L'abbiamo conosciuta in questo viaggio di terra in vista, Caterina Aspiezio, responsabile settore ricerca e conservazione del Parco Natura Viva di Pastrengo, parconaturaviva.it il sito. Ciao Caterina! Ciao! Ciao, bentrovata! Allora, ultimo appuntamento e andiamo a fare questa volta non un podio unico, ma una sorta di medagliere finale con alcune specialità molto particolari, vero? E molto animalesco. Sì. Molto. Sì. Tutte medaglie d'oro. Tutte medaglie d'oro. Partiamo con la prima? Sì. Potrebbe essere una sorta di triathlon, perché abbiamo l'iguana marina delle Galapagos, che ovviamente non va in bicicletta, però tra le altre cose che può fare invece è correre sulla terraferma e nuotare invece in oceano, anche a una buona profondità, perché per trovare poi le alghe marine di cui si nutre deve andare a 20 metri sotto il livello dell'acqua e riuscire a starci per circa 30 minuti. E la cosa interessante è che dopo aver pranzato ritorna sulla terraferma e fa dei bagni di sole necessari ed importanti per lei. Perfetto, quindi questo è il diathlon. Un diathlon particolare, esatto. Diathlon con abbronzatura, esatto. Esatto. Seconda medaglia d'oro invece. Le immersioni. Immersioni. Abbiamo lo Zifio, che è questa che veniva anche chiamata la balena dal becco d'oca, e raggiunge delle profondità veramente notevoli perché arriva a circa 3 km, infatti gli studi hanno monitorato una profondità raggiunta di 2.992 metri e non solo riesce ad andare così in fondo, ma riesce a tenere, a farlo in apnea con 138 minuti di apnea, che è tantissimo, sì. E quindi ha ben due primati, quindi da un lato la profondità che raggiunge, che è veramente tanta, e poi il periodo di tempo, l'apnea, perché riesce a non respirare, quindi a non far ritornare l'ossigeno all'interno del proprio corpo. Medaglia d'oro meritatissima. E poi terza medaglia, la ginnastica artistica? Sì, questa è molto particolare, è un primate che ha un primato ed è il gibbone agile, e i gibboni si riconoscono molto bene perché hanno questi arti anteriori, hanno le braccia molto lunghe, si muovono da un albero all'altro all'interno della foresta un po' come se fossero degli atleti sulle parallele in modo alternato, e non solo, perché poi quando scendono a terra camminano in modo bipede a braccia aperte per mantenere l'equilibrio, quindi guardandoli danno proprio la sensazione di un atleta che fa ginnastica artistica. Fantastico, il gibbone agile. Quarta medaglia d'oro. Lancio del peso. Ah. E abbiamo il gipeto, che è un grande rapace, lo vediamo anche nelle nostre aree, anche in Italia. È un uccello che vince la medaglia d'oro per il lancio del peso perché si nutre del midollo che c'è all'interno delle ossa. Quindi prendeva circa le carcasse, prende le ossa, le porta in alto e dall'alto poi le lancia sulle rocce a terra in modo tale che si possano rompere queste ossa e nutrirsi quindi del midollo che c'è all'interno delle ossa stesse. Attenzione, cioè, mi sembra un pranzo assolutamente guadagnato. Esatto. tanta fatica, esatto, per mangiare. L'ultima medaglia d'oro invece a chi la assegniamo? Ginnastica ritmica. E qui è veramente molto bello da vedere, c'è l'uccello del paradiso, che è capace di fare queste sorte di danze per riuscire a conquistare la femmina. Quindi è un po' come se indossasse la calzamaglia, perché anche delle colorazioni molto particolari, inizia ad allargare le ali, a fare un balletto spostandosi con dei saltelli a destra e a sinistra, muove, ruota la testa e può essere un maschio singolo oppure più maschi insieme, e con il premio finale, anziché la medaglia, l'amata. Ma questo è fantastico, guardatelo anche su internet, lo si può vedere come un maschio possa umiliarsi pur di riprodursi. È un esempio fantastico. 5 medaglie bellissime, grazie davvero a Caterina Spiezio per essere stata con noi a Terra in Vista. Ci hai veramente fatto divertire e fatto scoprire tantissimi animali. Ha aperto un mondo. Esatto, prestazioni insomma, che noi umani non possiamo fare altro che invidiare. Ciao Caterina, grazie ancora. Grazie a voi, ciao. Adesso ci fermiamo, il traffico, poi ancora qua con Terra in Vista. Vuoi diventare autore, creatore di format, redattore e conoscere i segreti del web, della pubblicità e del marketing radiofonico? Sintonizzati e frequenta il Master in Content and Management di Radio 24, RDS e 24 Ore Business School. A tua disposizione i massimi esperti del settore radio per una formazione completa ed esclusiva. Info su radio24.it e rds.it. Terra in Vista. Eccoci qua, Federico Taddia, Telmo Pievani, Terra in Vista, le Olimpiadi spiegate a mio figlio. In questa ultima puntata ci stiamo concedendo il piacere di conoscere meglio la parola vittoria, che così tanto è legata allo sport, e come ben sapete lo facciamo attraverso le domande dei più piccoli, domande come questa. Yuhu! È più bello vincere contro il tempo o contro un avversario? Il tempo... Il grande avversario, oppure uno in carne ed ossa. Esatto, che è un altro avversario che puoi vedere perché ha una faccia e ha un nome. Bella domanda, e quindi serve una bella risposta, e quindi abbiamo invitato un esperto di sport, di corse, di gare e di tempo. Diamo il benvenuto al giornalista, conduttore televisivo e vice direttore di Sky Sport, Guido Meda. Ciao Guido. Ciao, benvenuto. Ciao, buongiorno. Tra l'altro tu insomma sei anche autore di un libro intitolato Il miglior tempo, quindi col tempo hai veramente un rapporto stretto. Insomma, quando racconti, perché il tuo è un racconto, non è una telecronaca, una gara per esempio di motociclette, ti interessa di più quella sfida contro il tempo o quella sfida contro l'altro pilota? L'avversario e il tempo è un po' come se fossero la stessa cosa, secondo me. Sì. Tant'è che, ad esempio, nelle gare di moto, quelle che commento io, il sabato si gioca contro il tempo per qualificarsi, per guadagnare la posizione sulla griglia di partenza. La domenica si gioca per battere gli avversari. L'avversario, secondo me, sia l'avversario che il tempo del cronometro, sono un po' uno specchio di te stesso rappresentato in qualcun altro, in quell'altro, no? Anche dall'altro. Io credo che sia più bello fondamentalmente battere l'avversario e riuscire a farlo con rispetto, considerando che l'avversario è un altro che si sta mettendo in gioco come te. Se rispetti le regole, se rispetti il suo modo di stare al mondo con un tuo buon modo di stare al mondo, se rispetti la necessità di impegnarti per ottenere il risultato, credo che misurarsi con un'altra persona sia un modo anche di misurarti con te stesso. Quindi tra le due cose forse preferisco battere l'avversario rispettando tutte le regole. Penso che sia più bello, più giusto, più formativo, una cosa che ti fa crescere meglio, specie se quando l'hai battuto alla fine gli dai pure la mano, o quando ti ha battuto gli dai pure la mano e riesci a dare il significato giusto alla tua vittoria o alla tua sconfitta, che può essere magari il primo passo per guadagnare una vittoria la volta dopo. Se invece questo avversario non riesci a batterlo, perché è proprio più forte di te nella vita, qualche volta, ragazzi, capita, succede anche di constatare che c'è uno più forte di te, no? Magari più talentuoso di te in quella cosa lì, mentre tu sei più forte di lui in un'altra. Allora il cronometro diventa un altro avversario interessante, quello su cui misuri la sfida con te stesso. Caspita, per battere quell'avversario lì devo migliorare, e allora mi alleno col cronometro e il cronometro mi dice se sto migliorando. In quel caso è molto bello migliorare anche il tempo e la sfida con il cronometro. Guido, ti chiedo, visto che sei un grande esperto di tempo, nelle Olimpiadi c'è un dibattito su fino a che punto si può misurare il tempo, che è interessante, tipo nei 100 metri qual è il limite? I millesimi di secondo, se non sbaglio, non si contano più, giusto? Sì, essendo una sfida così tirata, arrivata a livelli così bassi, diciamo, in termini di tempo, o così alti in termini di performance, così estrema, sì. Che in realtà, secondo me, i millesimi cominciano a contare. Io comincerei a valutarli, anche perché abbiamo degli strumenti che ci consentono di calcolare i millesimi, i decimillesimi, ed è difficile scendere. Anch'io me lo sono sempre chiesto, però una risposta non ce l'ho. Ma l'uomo poi alla fine, fra 100 anni, se in 100 anni ha migliorato i suoi 100 metri di 2 secondi, quanto arriverà a migliorare soltanto usando le sue gambe, le sue scarpe, la sua testa e la sua intelligenza? Però è anche bello, secondo me, non avere delle risposte, no? Eh sì, godersele un po', no? Giorno per giorno. O noi, o che ci sia qualcuno che se le godrà, qualcuno che ci dimostrerà che si può fare anche meglio di quello che pensiamo. Stavo pensando un'altra cosa, poi sto zitto. Io ho una figlia che si chiama Vittoria. Che bello! Ce l'ho, ma c'è una ragione precisa. Si chiama Vittoria perché è arrivata alla fine di un anno molto brutto per me, con tanti dolori, fatiche, un lutto, un incidente che ho fatto nel quale mi ero fatto molto male. E allora con mia moglie ci è sembrato naturale che quell'anno lì, lei è nata il 30 dicembre, si potesse chiamare, simboleggiasse il fatto che arrivava finalmente una cosa molto bella nella nostra famiglia. E quella per me è stata una vittoria. Lì non c'era né il tempo né l'avversario, c'era semplicemente la fine di un brutto periodo nel quale ci siamo impegnati molto per far tornare le cose ad essere belle, ecco. Guido, un'ultima domanda la faccio al giornalista, sì. Appunto, vittoria è la parola di oggi. Quanto gode un giornalista quando c'è una bella vittoria? È una vittoria che senti anche tua quando c'è una bella gara? Sì, direi tanto, soprattutto quando hai il privilegio di conoscere bene le persone che stanno, come dire, sfidandosi in quell'esercizio, in quella gara sportiva lì. Il mio lavoro è molto bello perché io ho a che fare con i piloti, li conosco personalmente, conosco i pregi, i difetti, devo sempre mantenere una certa distanza, perché dovendoli giudicare non posso essere proprio il loro miglior amico, no? Sì. Però confesso una debolezza umana, che è quella di, come dire, di gioire, di avere una gioia dentro quando vedo un bel duello. Chiunque poi lo vinca, tante volte i duelli sono belli anche se non li vince il tuo pilota preferito, no? È vero, assolutamente. Insomma, lì è lo sport che bisogna vince. Bisogna stare attenti anche, secondo me, vedi, adesso ad esempio ho detto duello, no? Duello, battaglia, la guerra, il nemico. Non perché si debba per forza fare una morale, però in effetti lo sport dovrebbe imparare un po' ad abolirle, queste parole qua che hanno a che fare con altre cose un po' più brutte, mentre lo sport deve sempre avere una dimensione bella. Esatto. Grazie ancora Guido Meda per essere stato con noi in questa puntata dedicata alla vittoria. Ciao Guido. Grazie. Ciao. Non batter la fiaccola, curiosità a 5 cerchi. Amsterdam 1928. L'australiano Bobby Pearce sta facendo la sua gara ai quarti di finale del singolo a canottaggio. Pearce è dato come favorito, anche perché pure suo padre e suo nonno sono stati campioni di canottaggio. Ma mentre Pearce sta vogando a tutta forza, improvvisamente si trova davanti una famiglia di anatre che con tutta tranquillità sta attraversando il canale. Pearce riesce a fermarsi in tempo, aspetta che passino e poi riprende la gara. Nonostante questo tempo perso, la sua gentilezza verso le anatre viene ripagata. L'atleta riesce a vincere con ben 9 secondi di vantaggio sugli avversari, tra l'entusiasmo generale. Non batter la fiaccola, le nostre belle storie, e poi ci sono le altrettante fantastiche storie di Telmo Piovani. Telmo, una storia di una vittoria ora. Sì, abbiamo appena sentito che nello sport bisogna usare un linguaggio che faccia capire che è una cosa bella, non un linguaggio della guerra. Però lo sport ha intrecciato spesso la storia della guerra. Allora ti racconto quella che secondo me è la più grande vittoria di tutti i tempi alle Olimpiadi. Sono pronto a scommettere che è questa. Succede a Berlino, siamo nel 1936 e sono le Olimpiadi di Adolf Hitler. Sono le Olimpiadi nella Germania nazista. Attorno allo stadio olimpico c'è propaganda ovunque, girano manifesti che prendono in giro gli atleti neri paragonandoli a scimmie, no? E il Führer è lì sugli spalti, e mentre lui è lì che guarda, l'uomo meno ariano possibile che si possa immaginare, un afroamericano dell'Alabama di nome Jesse Owen, più nero che mai, vince medaglie su medaglie, vince 4 ori, e tutte le volte Hitler è lì costretto a congratularsi a distanza dagli spalti con questo discendente degli schiavi neri che finisce sul podio più alto. Però in realtà la vera vittoria di Owen è un'altra. Siamo nella finale del salto in lungo. Lui incontra un avversario molto tenace che è un tedesco puro sangue, Lutz Long si chiamava. Owen sbaglia 2 salti, è messo male, rischia di essere fuori. A quel punto Long, che ha più esperienze di lui in quella disciplina, gli si avvicina e dice: guarda che qui sei tu il più forte, devi solo imparare a staccarti da terra dal punto giusto, e gli fa vedere un punto dove c'è un fazzoletto bianco dove aveva messo lui per staccare. Owen lo fa, stacca giusto, si qualifica e vince lui la finale, vince l'oro con un salto fantastico di 8,06 metri, e il primo ad abbracciarlo è proprio Lutz Long, il tedesco puro sangue. E tutto questo succede davanti a Hitler, che osserva la scena. I due, il bianco e il nero, diventano amicissimi e cominceranno a scriversi dopo le Olimpiadi. Solo che qui la storia della guerra irrompe, perché nel 1942 Lutz Long viene chiamato in guerra, è sul fronte, è in Sicilia a fare la guerra proprio agli americani, e nel 1943 viene ferito gravemente, manda una lettera a Jesse Owen negli Stati Uniti, dice: guarda, io non so se ce la farò, quando la guerra sarà finita per favore vai da mio figlio, che è piccolissimo, lui non fa in tempo nemmeno a conoscerlo, vai in Germania e raccontagli chi è stato suo padre. E Owen lo fa, finisce la guerra, va in Germania e racconta di questa amicizia fantastica tra un bianco e un nero al figlio di Lutz Long, un'amicizia che fu in grado di sfidare e di battere perfino Adolf Hitler. E a Lutz Long è stato poi dato molto tempo dopo, postumo, la medaglia de Coubertin per il fair play. Sicuramente una delle vittorie più belle della storia delle Olimpiadi, come hai giustamente detto. Adesso è il momento della scienza, è il momento di Andrea Vico. Scienziati, esperimenti a 5 cerchi. Ultimo appuntamento per conoscere la scienza dietro lo sport, toscience.it, come sempre vi ricordo, l'associazione di cui fa parte Andrea Vico, toscience.it è il sito per conoscere tutte le attività proposte. Ciao Andrea. Ciao. Buongiorno a tutti, e intanto grazie per avermi ospitato in questa fantastica carrellata che ci aiuta a capire un po' meglio quello che stiamo vedendo seguendo le Olimpiadi. E quanta scienza c'è dentro lo sport, inaspettatamente. Assolutamente. Beh, oggi come ultima puntata, parola chiave vittoria, la vittoria della scienza è quando riesce davvero a essere utile all'uomo. Noi spesso ringraziamo quotidianamente la scienza che ci permette una vita molto comoda, molto agiata, però ci sono, cioè, siamo delle persone normali che approfittano del vantaggio che ci hanno dato gli studi scientifici. E il tema l'abbiamo un po' già toccato la settimana scorsa: ci sono, oltre le Olimpiadi, anche le Paraolimpiadi. Forse abbiamo tutti negli occhi le performance di Pistorius o anche di Alex Zanardi, che comunque grazie alla tecnologia e a degli strumenti sofisticati riescono a avere delle performance quasi a livello degli atleti cosiddetti normodotati. Però la frontiera sono due: uno l'elettronica, perché intercettare gli impulsi elettrici che comunque il corpo è in grado di stimolare e tradurli in un gesto elettromeccanico di una protesi è quello su cui si stanno orientando in molti. L'altro settore invece è ancora più avvenistico, è la stampa in 3D, ogni atleta, ogni persona che ha una menomazione ha una storia, una situazione particolarissima, sì. Fare una protesi adesso si può fare con la stampa in 3D e quindi riuscendo a costruire degli attrezzi che sono fatti davvero su misura e si possono addirittura quasi progettare e realizzare in casa con delle materie plastiche che vengono preparate su misura per un atleta. Ed è appunto negli ultimi anni gli atleti disabili riescono ad avere nuove occasioni per gareggiare anche a livello internazionale proprio perché ognuno si fa la sua protesi su misura e riesce in qualsiasi disciplina a gareggiare e a ottenere giustamente un oro che a questo punto vale doppio perché è veramente una sfida nella sfida. E questa è la scienza che accompagna lo sport in tutte le sue dimensioni. Grazie davvero ad Andrea Vico per essere stato nostro compagno di squadra in questa avventura a Cinque Cerchi. Ciao Andrea. Un piacere. Grazie. Ciao. Adesso ci fermiamo, il traffico, poi ancora qua con Terra in Vista. Terra in Vista. Eccoci qua, è arrivato il momento dell'ultima domanda di Terra in Vista. Andiamo ad ascoltarla insieme. Yuhu! Vince sempre il più forte? Domanda lecita, un po' dubbiosa, hai sentito la voce, ma vince proprio sempre, sempre, sempre il più forte? Per avere la risposta abbiamo chiamato un ospite che... Chi meglio di lei? Lei è la più forte. Ascoltiamo questo audio e poi andiamo a presentarla. In questa seconda manche basta una botta a Valentina Vezzali per laurearsi campionessa olimpica a Sydney 2000. Avanza Rita Koenig. Sì, sì, sì, è giusto. La stoccata di Valentina Vezzali, campionessa olimpica 2000, corona il suo lungo sogno a 26 anni. Era il suo primo oro, non la sua prima medaglia olimpica. Lei che ne ha 26 di ori, un argento, due bronzi, l'atleta italiana più medagliata di tutti i tempi. Diamo il benvenuto a Valentina Vezzali. Ciao Valentina. Ciao. Ciao a tutti. Ma te le ricordi tutte queste medaglie? Ma devo dire che me le sono conquistata con grande fatica, quindi devo dire che me le ricordo, sì, devo dire che me le ricordo tutte. Insomma, certo, sono pezzi di storia molto molto belli. Valentina, vince sempre il più forte? Rispondiamo subito alla domanda del nostro amico. Andiamo subito diretti, come era un po' la mia scherma, molto semplice e molto diretta. Io credo che vinca chi è che ci creda. Chi crede di vincere può vincere e non necessariamente deve essere il più forte, deve credere fortemente in se stesso. Insomma, che è un ottimo consiglio. Quindi è una disciplina mentale oltre che fisica, ci devi credere. Sì, e devi credere, quindi la testa è fondamentale perché la testa ci permette di fare tutto e quello che mi ha portato sempre avanti nella mia vita è sfidare i limiti e cercare di capire dove ogni volta potevo arrivare. Ogni volta mi sono sempre fissata al paletto, sempre più in là, perché io credo che potenzialmente noi possiamo fare veramente grandi cose ed essere da stimolo per i bambini, indurli a capire che possono fare grandi cose se lo vogliono veramente, ma in tutti i campi è davvero stimolante e veramente bello. Ma Valentina, questo crederci esce di più in gara o esce di più durante gli allenamenti? Ma guarda, devo dire che a volte gli allenamenti sono veramente duri, sei stanco. Io sono una sempre stata perfezionista che si è sempre allenata 5-6 ore al giorno, anche nei giorni di feste non conoscevo pausa, anzi mi dovevano fermare. E devo dire che anche negli allenamenti non mi piaceva perdere. No. questo è importante. Poi dimmi una cosa, la scherma, insomma, c'è questa maschera, aiuta a vincere avere una maschera? Ma devo dire che la maschera protegge nella scherma, quindi, e poi la maschera ha una sorta non so che di misterioso che poi attrae la persona che sta fuori, lo spettatore, a guardarti, a dire ma che cosa ci sarà sotto la maschera. Abbiamo anche provato per un periodo, infatti le Olimpiadi di Pechino le abbiamo fatto con la maschera in vetro, perché per far vedere gli occhi che cosa c'è sotto la maschera, e devo dire che le mie avversarie, quando vedevano i miei occhi ed ero in pedana, avevano paura di me. Dicevano che avevo gli occhi della tigre. Che poi insomma è così bello invece il momento in cui ci si alza la maschera e si vedono questi occhi da tigre, a volte arrabbiati, a volte esultanti, a volte tristi, però è veramente un'esplosione liberatoria. Un'esplosione di emozione, sì, è liberatoria. Il problema credo sia credere di poter vincere quando ci crede anche l'avversario, lì diventa una gara chi ci crede di più. Ovviamente l'avversario è una persona come noi, e quindi noi nel momento in cui decidiamo di giocare sappiamo che abbiamo un nostro simile con il quale confrontarci e misurarci. Poi ovviamente a parità di bravura vince chi è che riesce a rimanere più freddo e più determinato, e soprattutto a chi riesce ad isolarsi, a non vedere niente di quello che c'è intorno, ma a pensare solo a piazzare una stoccata dopo l'altra fino a quando l'arbitro dice stop, è finito, perché ha piazzato la stoccata decisiva. Ma Valentina, noi italiani siamo sempre stati forti nella scherma, no? Corretto? Come siamo mai? Tutti spadaccini, siamo un popolo di spadaccini, una grandissima tradizione. Come te lo spieghi? Una tradizione storica? O c'è qualcosa nella nostra storia, nel carattere? Com'è? Qual è la causa? Come mai? Ma guarda, io devo dire che c'è un detto che è stato premiato nella mia città, che ha creato ben 4 campioni olimpici differenti, quindi una piccola cittadina di 40.000 abitanti, e mi piace ogni volta evidenziare: la scuola fa scuola, i campioni fanno i campioni. Sì, quindi insomma c'è anche l'insegnamento, ci sono i maestri, c'è la testimonianza, c'è la cultura di questo sport. Valentina, ci si abitua a vincere? No, assolutamente mai, ogni volta è come fosse la prima. E poi devo dire che la vittoria è bellissima, le sconfitte fanno tanto male. Poi lo dice una che praticamente da bambina, se non diceva un assalto 5-0 ma 5-1, piangeva a dirotto perché era una tragedia. Però le sconfitte sono veramente salutari, perché ti riportano con i piedi per terra e poi ti fanno aver voglia, ti fanno aver fame di voler di nuovo tornare sulla vetta, in cima al podio, di essere la più forte. Quindi quando tu perdi e poi vinci di nuovo è ancora più bello. Valentina, spesso nel nostro programma abbiamo parlato di sport individuali e sport di squadra. La scherma permette di fare entrambe le cose, no? Tu hai vinto tante medaglie individuali e tante medaglie di squadra. Sono medaglie che hanno un sapore diverso? Ma io devo dire che la scherma è una disciplina individuale e di squadra, e pensate che le gare individuali vengono fatte normalmente il giorno prima della gara squadra, quindi ti può capitare di dormire con la tua compagna di stanza, con la quale magari ti giochi un oro olimpico, e magari una arriva prima e l'altra seconda, e dormire nella stessa stanza e poi il giorno dopo fare una gara squadra. Ecco, io credo che questo sia il bello dello sport, vincere individualmente, però quando poi si tratta di fare squadra, di plasmare le individualità per l'obiettivo comune, che è quello di far vincere l'Italia, alla fine noi della scherma riusciamo molto spesso, anzi quasi sempre, a farlo, e sono fiera di aver fatto parte di quel Dream Team del passato e del presente, che ha regalato veramente tante tante tante soddisfazioni alla nostra Italia. Sì, tante esultanza a noi tifosi. Grazie davvero Valentina, complimenti, e insomma grazie per tutte le tue e le vostre vittorie. Ciao. Ciao a tutti. E questo è quello che abbiamo imparato nella puntata di oggi. Che l'avversario è un altro che si sta mettendo in gioco proprio come te. Abbiamo imparato che in certi popoli il cacciatore che ha vinto non deve assolutamente vantarsene. E poi abbiamo imparato che a vincere non ci si stanca mai. Ma soprattutto abbiamo imparato che se ti dicono che sei un gibbone agile, non devi offenderti, ma devi darti alla ginnastica artistica. Ma soprattutto abbiamo imparato che per vincere bisogna crederci. Ultima puntata di Terra in Vista, un programma scritto con Paola Manduca. Un grazie a Massimiliano Lollis in redazione, che ci ha affiancato per tutta l'estate. Oggi alla parte tecnica Pietro La Corte. Radio24.it per poter riascoltare tutte le puntate. Telmo, abbiamo vinto anche noi qualcosa. Sì, abbiamo vinto, siamo stati una grande squadra, ci siamo divertiti, abbiamo davvero viaggiato tanto, un viaggio a cinque cerchi che ci ha fatto scoprire tantissime cose e tanto anche di noi. Quindi l'appuntamento alla prossima impresa di Terra in Vista, chissà quale sarà. Grazie ancora a voi per essere stati in nostra compagnia, vi ricordo ancora radio24.it per poterci riascoltare. Telmo Piovani, Federico Taddia. V è un vaso a punta. V è un vaso a punta senza un fiore, senza acqua dentro che faccia rumore. Simile al viso dal mento appuntito di un vecchio magro senza appetito. V è un vaso a punta senza un fiore che gli dia vita con il suo colore. Somiglia alla faccia di voi scolari, quando avete paura di vedervi somari se la maestra vi interrogherà. Questa è la V della mia vittoria. E con questa io vado alla gloria.